Magazine 24, la rassegna dei settimanali. A cura di Mauro Meazza. Buona giornata, bentornati in Magazine 24, il nostro appuntamento con la stampa periodica italiana e straniera. Da ieri è tornato in edicola per l'anno 2010 il supplemento, il mensile del Sole 24 Ore, il Intelligence in Lifestyle, ma insomma più brevemente lo possiamo chiamare il mensile del Sole 24 Ore. Come sapete è un mensile fatto dalle firme del giornale e non solo, e che si occupa un po' di tutti i temi. Lo trovate in vendita con il nostro quotidiano, con il Sole 24 Ore, anche nella giornata di oggi, nei giorni prossimi potrete trovarlo in edicola. La copertina è dedicata all'altro mondo, quindi un po' all'ultraterreno, con un recupero delle credenze primitive, dei comportamenti religiosi primitivi in materia di al di là, in qualche modo. Ma spigolando poi invece tra le pagine si trovano anche molti altri spunti, come d'abitudine. Ad esempio nel Global Report, che è una delle sezioni che i lettori di Il conoscono molto bene, c'è la coppia di pagine dedicata alle questioni più rappresentate graficamente, dedicata ai camion. Allora, poiché la radio è un mezzo che ha grande fortuna tra i mezzi di trasporto, è un mezzo molto ascoltato da chi viaggia, allora vi do qualche indicazione che prendo proprio da Il sui camion, che sono dei protagonisti assoluti delle nostre strade e non solo delle nostre. Ad esempio, quali colori di camion vanno di più a seconda della regione del mondo in cui vi trovate? Il spiega che ogni popolo ha i suoi gusti, ai giapponesi i furgoni e i camion piacciono grigio metallizzato, invece agli europei piacciono di più neri, gli americani optano per il bianco o colori anche più accesi. La classifica è stata stilata da DuPont Automotive e viene ripresa. In particolare il bianco è bianco il 25% dei camion che girano nel Nord America, solo il 5% di quelli che girano in Europa, quindi c'è una forte divaricazione tra i due valori. Così è grigio chiaro il 24% dei camion che girano in Europa e solo il 16% di quelli che girano in Nord America. Un camion su tre in Giappone è grigio chiaro. Andando su colori un po' più inconsueti, il rosso ad esempio, non così inconsueto, in Europa viene accreditato solo il 3% dei camion con questo colore, in Nord America l'11% e così via. Il nero è in testa in Europa, è scelto da un camion su tre. Poi c'è un dizionario dell'autotrasporto con tutte queste definizioni di quel generico termine camion, quindi dall'autocarro, l'autotreno, l'autoarticolato, la bisarca, quella che trasporta le macchine, le autovetture, poi l'autocisterna, il damper, ovvero il ribaltabile, come si chiama in modo un po' più confidenziale, fino alla betoniera che serve nei cantieri, e poi i camion gru, gli autocompattatori di rifiuti e poi quelli di trasporto specializzato, ad esempio trasporto di bestiame o di legname. C'è anche una piccola cronistoria dei camion in queste due pagine di Il. Ad esempio, il primo camion è stato costruito nel 1896, è stato costruito dalla Daimler, aveva ruote di legno e il motore era a due cilindri. Poi nel 1911 la Fiat produsse il 15 Ter, era l'inizio appunto del XX secolo, c'erano già diversi costruttori sul mercato, la Fiat è stata quella che ha fornito i primi autocarri, era una fornitura per l'esercito. Poi nel 1932, con un modello fatto da Volvo, il motore fu portato più avanti, venne aumentata notevolmente la portata di carico e i cerchi divennero di metallo, e poi via via si arriva ai giorni nostri. Gli ascoltatori, diciamo, della mia età ricorderanno il Fiat 690, era il classico camion, mitico modello a quattro assi della Fiat, ebbe un enorme successo tra l'altro non solo in Italia ma in tutto il mondo. E poi i camion più moderni come gli Space Truck, che dovrebbero essere lanciati, almeno giudicando dai prototipi che si vedono nei vari saloni specializzati, nei prossimi anni. Sono nuovi tir, naturalmente molto più avveniristici di quelli che ci siamo abituati a vedere in questo periodo. Restando ancora in materia di traffico, sempre da Il, c'è una curiosa tendenza che sta emergendo in Australia, dall'altra parte del mondo. Quindi gli australiani Alcuni australiani perlomeno hanno deciso di godersi la pensione on the road, cioè viaggiando. Li chiamano nomadi grigi. L'articolo viene segnalato da Stefano Gulmanelli da Adelaide, spiega che c'è questa terza libertà, un gioco di parole naturalmente con la terza età, venduta la casa, la vita continua in caravan. Spiega Gulmanelli, sono cresciuti in numero tale che per seguirne le vicende sono appena nati un sito e una rivista, Grey Nomads, cioè nomadi grigi, coppie non più giovani che hanno la voglia di riassaporare la libertà del viaggio on the road e rappresentano una fetta sempre più consistente della società australiana. Una tendenza che viene alimentata in buona parte da quelli che furono i baby boomers, cioè nati tra gli anni 50 e 60, in progressiva uscita dal mondo lavorativo, appunto andando in pensione, ritirandosi, decidono di fare questa scelta definitiva, abbandonare i mattoni per scegliere le ruote. Il gruppo sta alimentando un intero nuovo settore dell'economia australiana, venduta o passata ai figli l'abitazione stabile. I Grey Nomads pensano innanzitutto a dotarsi di una casa su due ruote, caravan o camper, e il fenomeno ha raggiunto dimensioni tali che a oggi in Australia si costruisce un caravan ogni 9 minuti e ci sono liste d'attesa di almeno 3 mesi. Non solo, non avendo impegni lavorativi, questi signori sono in giro poi nei periodi di bassa stagione e si possono fermare anche a lungo in un posto, come spiegano gli stessi costruttori di caravan, e quindi diventano anche un'ancora di salvezza per molte destinazioni turistiche che altrimenti rischierebbero di entrare in crisi tra una stagione e l'altra. Per gran parte di quanti lo praticano, a conclusione di Gulmanelli, il grey nomadism, questo appunto nomadismo grigio, non è altro che la riconquista dello spirito e dello stile di vita tipico degli australiani una volta che gli impegni della vita produttiva sono terminati. E un ex giornalista televisivo appunto si è dedicato a questa attività, a questo modo di vivere itinerante, e dice: quello che cerco oggi è recuperare le esperienze di 30 anni fa, trovarmi da qualche parte da solo immerso nella natura. Quindi un recupero, insomma, una sorta di ricerca della giovinezza. E allora, se vogliamo parlare di cose che non sono proprio di questi tempi ma sono ancora attuali, andiamo ancora su Il per un'ultima segnalazione, e proprio dal mensile allegato al Sole 24 Ore da ieri troviamo una coppia di pagine dedicata al tostapane. Il tostapane è un oggetto che sempre attuale, ha avuto certo il suo massimo sviluppo proprio negli anni 60, quelli appunto evocati dai nomadi grigi australiani. La rubrica si chiama Pezzo per pezzo, smontiamo il mondo per capire come funziona. Compare un tostapane di modello, diciamo, non recentissimo, ma tuttora attuale per carità, che viene smontato pezzo a pezzo per far vedere appunto come si compone. La maggior parte degli oggetti, spiega un articolo che accompagna poi questa scoperta del tostapane, si esaurisce nello scopo che li ha generati. La loro è una natura finita, predeterminata, utilitaristica, e l'esistenza loro è condannata a correre in parallelo con l'efficienza. Ma il tostapane no. Chi lo dice? Lo dice un sociologo americano, Harvey Moloch, che ha scritto anche un libro, Fenomenologia del tostapane, come gli oggetti quotidiani diventano quello che sono, e tratteggia proprio questo mondo delle cose che sono in grado di emanciparsi dagli innati limiti tecnologici e costituire un universo in cui l'oggetto quasi vive di vita propria. Gli americani, avverte appunto sempre Il, venerano il tostapane come una divinità pagana. Magazine 24. Bentornati a Magazine 24, stavamo parlando di Il, degli articoli di Il, il mensile che è allegato da ieri al Sole 24 Ore, lo trovate in edicola in vendita con il nostro quotidiano. Parliamo di un'altra cosa che trovate in edicola in vendita con Panorama in questo caso. Panorama questa settimana propone un DVD con una lunga intervista di Luca Iosi a Bettino Craxi. Avrete sicuramente seguito le polemiche che sono scaturite dall'iniziativa del Comune di Milano di voler dedicare una strada a Bettino Craxi. C'è chi la ritiene un'iniziativa giusta e chi invece la ritiene un'iniziativa, se non prematura, addirittura sbagliata. Allora, in questa polemica si inserisce questo prodotto, questa offerta di Panorama, di questo DVD in cui c'è un Craxi intervistato appunto ad Hammamet, lontano dall'Italia già da anni, che parla un po' di politica ma molto anche degli suoi aspetti privati. Noi abbiamo voluto raggiungere al telefono il direttore di Panorama, Giorgio Mulè, per chiedergli un po' i motivi che lo hanno portato a proporre in edicola questo prodotto. Buongiorno direttore, grazie di essere con noi questa mattina. Grazie a voi. Direttore, perché avete deciso questa iniziativa? Naturalmente perché Craxi è un tema che adesso va molto forte, ma quali sono i motivi che vi hanno portato a lanciare questo prodotto? Perché io penso che sia arrivato il tempo non di riabilitare i Craxi, per carità, ma neanche di rimuovere la figura di Craxi. Di Craxi noi abbiamo conosciuto e purtroppo ci viene tramandata negli ultimi 15 anni soltanto la figura di un imputato che era rimasto impigliato nella rete di Tangentopoli. C'è un altro Craxi ed è il Craxi politico, il Craxi impegnato nella politica economica, internazionale, italiana, il Craxi che è sicuramente stato protagonista di alcuni cambiamenti fondamentali nella storia della Prima Repubblica. Questa intervista serve per riportare al centro dell'attenzione questa figura che invece era stata, se non rimossa, quantomeno lasciata troppo in secondo piano rispetto al Craxi imputato. Ecco, lei ha messo in evidenza molto bene i due aspetti, cioè l'ascito politico, l'eredità politica e istituzionale di Craxi e poi la sua vicenda invece giudiziaria che condiziona anche il giudizio sulla prima parte o potrebbe condizionarlo. In questa ottica non è un po' presto l'iniziativa che si vuole fare qui a Milano, la dedica di una via, ha suscitato molte polemiche, come sa. Ma io penso che la celebrazione di Craxi, per quanto prematura, come dire, sia dovuta da un punto di vista storico e politico. L'intitolazione di una strada, il gesto esterno e visibile di una forma di gratitudine, di riconoscimento del bene politico di Craxi, penso che debba arrivare in un secondo momento. In questo momento è necessario riportare al centro l'opera politica e ciò che di buono o di male ha fatto Craxi, ripeto, al di là del suo coinvolgimento di Tangentopoli. Per il resto ci sarà tempo per discuterne serenamente. Certo. C'è qualcosa che l'ha colpita in particolare di questa intervista di Iosi, qualche passaggio che l'ha colpita più degli altri? Devo dire la preveggenza di Craxi, il fatto di lucidamente saper osservare i fenomeni come per esempio sui rapporti con l'Europa, i rapporti in politica internazionale, il punto sul riformismo. Cioè Craxi ha una straordinaria attualità in quello che dice 12 anni fa, 13 anni fa oramai. È straordinariamente attuale perché sembra di sentirlo parlare come se fosse stato intervistato, non dico ieri, ma insomma in queste settimane, con questa capacità di visione politica che sicuramente aveva. E poi, come dire, la sua orgogliosa rivendicazione di una difesa non di maniera, ma intimamente convinta del fatto suo. Lo rivendica in maniera orgogliosa, così come rivendica il fatto di essere socialista nella migliore accezione che si possa pensare. Grazie direttore, immagino che di Craxi e delle iniziative legate a Bettino Craxi sentiremo ancora parlare in questi giorni, in queste settimane, magari ci torneremo proprio qui a Magazine 24. Ora possiamo ascoltare un brevissimo stacco di questa intervista legato proprio al rapporto di Craxi con i figli e i suoi rimpianti anche della politica che lo ha tenuto lontano dai figli. Mi dispiace solo di averli visti poco quando erano piccoli. Li ho visti poco quando erano piccoli, insomma, una cosa e l'altra. Non sono stato un... Ma forse è anche meglio questo, che più stai addosso ai figli e più poi rischi di guastarli. È meglio che a un certo punto che crescano, che vadano un po' in giro, no? Che si svegliano da soli, perché quando gli stai troppo addosso, questo lo dico soprattutto per le mamme, no? Quando le mamme stanno troppo addosso ai maschi e poi dopo vengono fuori i problemi, no? E quindi è così, li ho visti, voglio bene a tutti e due. Mi spiace che tutti e due soffrano di questa storia, di questa vicenda che prende suo padre, che tutti e due ne soffrano. E allora abbiamo parlato di cose del nostro recente passato, proviamo a dare uno sguardo al nostro futuro prossimo, adesso lo facciamo con l'Economist. L'Economist ci avvisa questa settimana che stanno arrivando le pillole intelligenti. Beh, direte voi, meglio che le bombe intelligenti di cui avevamo sentito parlare. Il termine è molto simile in inglese, è sempre smart, quindi furbo, intelligente, astuto. E di cosa si tratta? Si tratta di una nuova frontiera che stanno sperimentando le case farmaceutiche, provando ad associare i loro prodotti delle potenzialità diverse. Molto divertente la didascalia che accompagna la foto di una di queste nuove pillole, così come si stanno immaginando. Sono una pillola normalissima con un piccolo chip sul modello di quelli che potete trovare sulla SIM del vostro telefonino, ad esempio, e la didascalia dice: prendete questa pillola, o se no la pillola lo dirà alla mamma, lo dirà a vostra madre. Perché? Perché proprio una delle iniziative che si possono legare a questo sviluppo tecnologico è esattamente questa. Sono delle pillole intelligenti che servono appunto delle nuove strategie. L'idea è che, come racconta l'Economist, ci sia un modo di far interagire questo microchip che si inserisce nella pastiglia, nel medicinale, con un ricevitore di onde come fosse un Bluetooth, e poi da lì potersi collegare, che so, al telefonino del medico o al suo computer. E in sostanza, se uno dice al dottore: ho preso le pastiglie che lei mi ha dato e poi non lo fa, il dottore viene a saperlo, perché non si crea, appunto, non si innesca questa reazione che manda il segnale che la pillola è stata consumata. Potrà sembrare un'applicazione poco fortunata, ma invece, secondo l'Economist, è uno degli studi che sembrano più promettenti proprio per i conti delle case farmaceutiche, proprio per trovare il modo di integrare al meglio le frontiere delle varie nuove tecnologie anche nella materia della medicina. Cambiamo ancora argomento, prendiamo Vanity Fair. Vanity Fair questa settimana si è occupato di Tiger Woods. La Tiger Woods naturalmente è finito nel mirino degli scandali per via delle sue disavventure di tipo sentimentale, ma Vanity Fair, in una serie di articoli dedicati proprio a questi ribaltoni che possono colpire le star, i personaggi più in vista, si è anche chiesto: ma come cambiano gli affari nello sport e nella moda quando succede che qualcuno di questi personaggi pubblici abbia un, diciamo così, rovescio, un inconveniente altrettanto pubblico? Allora, il conto era stato presentato nelle settimane scorse anche in modo più generico sul Sole 24 Ore. Vanity Fair fa un lavoro molto dettagliato. Cominciamo da Tiger Woods. Attualmente lui è 24esimo nella posizione di uno speciale indice che misura il valore commerciale delle celebrità. Esiste anche un indice per misurare questo. Prima che scoppiasse lo scandalo era al sesto posto. L'ultima volta in cui una pubblicità con Tiger Woods è andata in onda nel periodo della prima serata negli Stati Uniti è stato il 29 di novembre, e il calo di popolarità nelle vendite che si è poi riflesso nelle vendite di giochi e gadget con il volto di Tiger Woods è pari al 33%. Insomma, ci ha rimesso più o meno un terzo dei suoi guadagni, che comunque restano assolutamente considerevoli. Però ci sono degli altri esempi interessanti. Ad esempio, Magic Johnson negli anni 80 aveva contratti con diverse grandi società, chiaramente legate alla sua attività di campione di basket, e complessivamente muoveva un valore di 8 milioni di euro. Nel 91 annunciò di essere sieropositivo e nel 92 nessuno dei contratti venne rinnovato. Quindi non sono passati poi così tanti anni, ma potete capire come questa notizia, che era assolutamente, come dire, molto più difendibile, se volete, di quello che invece ha dovuto fronteggiare Tiger Woods, portò davvero molto molto male a Magic Johnson. Dopo 5 anni lontano dai campi di pallacanestro, tornò a giocare senza contratti e finalmente nel 2003 ottenne il primo contratto, nuovamente il primo contratto pubblicitario, dal 1991-1992, quando aveva perso gli altri. Quindi a volte ci sono delle cattive notizie che diventano davvero delle notizie pessime per quanto riguarda il filone economico. Poi su Vanity Fair trovate anche i casi di David Beckham e di Kobe Bryant, un altro cestista, Accusato invece, questo una cosa molto più grave, accusato, venne arrestato con l'accusa di violenza sessuale su una 19enne, però perse appunto i contratti anche quando le accuse poi vennero ritirate. Aveva contratti nel 2003 da 25 milioni di dollari, nel 2007 vennero stimati 11 milioni di entrate da sponsor. E con questa indicazione sugli effetti economici della cattiva pubblicità abbiamo concluso la nostra puntata di oggi. Io vi ringrazio, vi do appuntamento alla prossima settimana. La prossima settimana, come sapete, il palinsesto di Radio 24 verrà notevolmente rinnovato. Anche Magazine 24 presenterà un doppio appuntamento, sia il sabato che la domenica, sempre alle 8:30. Ringrazio Filippo Oreggi quest'oggi in regia, grazie anche a Vittoria Mussini e Emanuela Sicuro che mi hanno aiutato a preparare questo programma. A risentirci sabato prossimo.